Allora, benvenute e benvenuti a Cabaret Extra Voltaire, la prima puntata di questo extra podcast di Cabaret Voltaire che abbiamo creato apposta per Marti perché potesse dare voce alla sua creatività. Allora, questa sera facciamo un sequel dell'ultima puntata di Cabaret Voltaire che avevamo dedicato a presentare il libro che ha curato Martina, che si chiama Mi senti, ed è un commento, diciamo, una trascrizione dei tre monologhi di Simona Semenic. E questa sera, nello specifico, Martina e Giulia, che a breve si presenteranno, ci reciteranno effettivamente il primo dei tre monologhi di Simona Semenic, Io la vittima. Si tratta di monologhi autobiografici e il testo è stato pubblicato nel 2007 e ha debuttato nell'ottobre del 2007 al Club Gromka di Metelkova a Lubiana e all'interno del Festival Città delle Donne. In Italia il monologo è andato in scena il 6 novembre del 2023 al 19° Festival dell'Eccellenza al Femminile del Teatro di Genova e ai tempi la protagonista era Valentina Lodovini. Invece questa sera appunto ci sono Martina e Giulia, a cui adesso cedo la parola per presentarsi, che ci racconteranno, insomma daranno voce a questo monologo. Buonasera, grazie mille. Io sono Giulia Trivero. Nella vita di lavoro faccio l'attrice e la drammaturga e ho cofondato un'associazione femminista intersezionale che si chiama Amleta e si occupa di contrastare la disparità e la violenza di genere all'interno del mondo dello spettacolo, settore in cui è estremamente diffusa. E grazie anche alla collaborazione con Amleta ho incontrato nel mio percorso Martina, direi un annetto fa, in occasione della lettura all'Università Statale di un altro testo meraviglioso di drammaturgia femminile e femminista che è Consent di Nina Rain, e da lì è iniziata l'avventura che ci ha portato a Simona. Sì, io sono Martina e ho appunto lavorato su questo, sulla drammaturgia di Simona ormai da 5 anni. E siamo arrivati a tradurre questo testo che si chiama Mi senti, che comprende i tre monologhi di cui il primo leggeremo stasera. E appunto il testo, quando è stato pubblicato e abbiamo presentato il testo a Book City, è stato letto in alcuni estratti da Giulia con un'altra attrice, Giulia Maino, che collaborerà anche sulla lettura del prossimo testo, perché questo podcast che è nato insieme a Laura, questo Cabaret Extra all'interno di Cabaret Voltaire, abbiamo pensato di portare a leggere tutti e tre i testi raccolti in Mi senti, che è appunto il libro che raccoglie questi monologhi di Simona. Perfetto, quindi lascerei la parola a voi e niente, buono spettacolo. Una volta la mia amica Vesna mi disse: sai Simona, è un bene che tu soffra di questa malattia divina. Se così non fosse, probabilmente adesso cloneresti patate all'Istituto Josef Stefan. Mi ci vedi in camice bianco a clonare patate? Ma questo non è un buon inizio per un'introduzione, se l'introduzione deve presentarti questo testo che hai tra le mani. O forse lo è. Se non altro, adesso sai che ho questa malattia divina e che non clono patate all'Istituto Josef Stefan e in nessun altro posto. E non so ancora dove voglio arrivare. Ciò che hai davanti è di fatto la mia autobiografia in 3 spettacoli. Ho scritto e messo in scena Io la vittima nel 2007. Dammi di più nel 2009 e la seconda volta nel 2014. Si tratta di testi autobiografici in cui, come mi sono accorta dopo averli riletti, affronto per lo più temi legati all'autorità. A partire da esperienze personali, questi tre testi, bene o male, criticano il sistema in cui viviamo attualmente. E non è ancora una buona introduzione, non so ancora che direzione stia prendendo. L'ho immaginata come una conversazione con te. Non è che sia proprio la più esperta in materia. Me la cavo molto meglio a parlare con il pubblico dei teatri. Nelle mie didascalie parlo con il pubblico. Ma questa non è una didascalia. Questa è l'introduzione a una raccolta di 3 miei spettacoli in cui mi piacerebbe parlare con te nel modo in cui, nei miei spettacoli, parlo al pubblico. Ti immagino seduto nell'ancora flebile, ma più che benvenuto sole di primavera, con una tazza di caffè in una mano e il libro nell'altra, a leggere. E ora sorridi. Forse fuori è buio e fa freddo, e tu sei seduto sul divano sotto una calda coperta con il libro tra le mani. Quello che stai leggendo non è un romanzo e nemmeno un testo teatrale. È... Cos'è? Sono io, che provo a parlare con te. È una calda coperta. È un divano. O forse il sole di primavera. Ma sarebbe meglio cominciare. Io, la vittima. Una solo di parole. Io, la vittima, si apre con la seconda didascalia più bella che sia mai riuscita a scrivere. Una breve pausa. Inspira. Ed espira. E poi comincia. Il primo. Nella nobile selezione delle mie malattie, disturbi, handicap, fastidi, o in qualunque modo li si voglia chiamare, è bagnare il letto. Ho bagnato il letto per molto tempo. Intendo davvero molto tempo. O almeno a me è sembrato molto. Fino a circa 16 anni. Metà della mia vita. La volta più terribile è stata quando ero in Inghilterra come studentessa per uno scambio di inglese. Dormivo da una famiglia inglese in una casa bifamiliare. All'epoca avevo circa 15 anni. E avevo le mestruazioni. E mi feci la pipì al letto. Sotto di me avevo il telo rosa. Come sempre. Come ovunque. Ma si era spostato. Il materasso pieno di pipì e di sangue. E poi non sapevo cosa fare. Ero troppo imbarazzata per dirlo alla famiglia e lo girai. Il materasso in modo che non si vedesse. Poi tornai a casa. Dopo circa 2 settimane arrivò una lettera dal proprietario del materasso. Il materasso è rovinato. E dovevamo pagarlo. Sì, è andata così. Da un medico a uno stregone. E ritorno. Dormivo su reti speciali antipipì. Poi non bevevo dopo le 6 di sera. Poi prendevo qualche pillola. E alcuni rimedi da strega. Poi disegnavo soli e nuvole su un quaderno da portare al medico. E allo stregone. Un sole per una notte asciutta. Una nuvola per una bagnata. In attesa di un medico. Accumulai un bel mucchio di nuvole e una volta ogni tanto un sole. Nuvole e soli. Mi sentivo la persona più stupida del mondo. Tutte queste nuvole e soli. Servirà davvero a qualcosa? Avrei preferito addormentarmi e svegliarmi dove non ci fosse altro. Che il vento. Non servì a nulla. Ovviamente. A volte mi punivo da sola. Mi isolavo. Non uscivo con nessuno, perché non me lo meritavo. Perché non ero degna. Perché mi ero pisciata a letto. Perché è una cosa disgustosa. Perché nessun altro lo fa. Non ne parlai con nessuno. Le mie amiche non lo sapevano. Almeno io pensavo di no. E ci speravo così tanto da starci male. Non dormivo mai dalle amiche, tranne 2 volte. A circa 15 anni. Una volta da Vesna. Una volta da Urška. Entrambe le volte disegnai una nuvola sul mio quaderno. Una volta girai pure il materasso. E poi basta. Dormire dalle amiche. E le nuvole persistevano sul mio quaderno. E poi mia madre ricevette alcuni buoni consigli. Da un amico, di un vicino, della zia, di un conoscente, di un cugino, di un ex compagno di scuola di mio padre. Rompere gusci d'uovo ogni notte. Che avrei dovuto mangiare. E tutto questo sarebbe finito. Per sempre. E così mangiai. E mangiai. E mangiai. E mangiai. Sul quaderno. Sulle lenzuola. Sul materasso. Su di me. Nuvole. Nuvole. Nuvole. Nuvole. Sola e unica al mondo. La pisciona. Qualsiasi cosa faccia, mi sveglio bagnata. Puzzolente. Non importa quanto mi lavi. Puzzo. Finché un giorno non entrai nella stanza di un amico. Il mio vicino di casa. E sentii un odore familiare. Non capii subito cosa mi ricordasse quell'odore. Piscio. Materasso. Lenzuola, pareti, mobili, tutto ne era impregnato. Non c'è scampo a questo odore, amico. Puoi lavare, pulire, fare qualsiasi cosa. Puzza. Io, da intenditrice, lo riconobbi. Quella puzza familiare. E in quel momento capii che non ero sola. Odore di redenzione. Che eravamo almeno in 2 nell'arco di 100 metri quadrati. La puzza di noi 2. E poi, a poco, di noi 3. La nostra puzza. Immagino che non sapessimo della nostra esistenza. E poi il nostro numero crebbe ancora di più. E poi improvvisamente capii che siamo una civiltà di piscioni. Che è così e basta. E che non vale la pena preoccuparsi. Così ora quando ogni tanto mi sveglio in una nuvola accanto a mio figlio di 6 anni, sono un po' in imbarazzo di fronte a lui. Ma la cosa non mi crea grossi traumi. Da quando ho smesso di disegnare nuvole. Il secondo, nella nobile selezione delle mie malattie, è l'herpes genitale. Mi venne per la prima volta quando avevo 8 anni. Prima febbre, Poi penicillina. Fino ad allora ero sempre stata sana e non avevo mai preso alcun farmaco. Il medico non sapeva che ero allergica alla penicillina. Mi prescrisse Ospen 1000. E poi gonfiore. Su tutte le articolazioni sempre più gonfie. E herpes sul culo e sui genitali. Questo herpes, nemmeno il medico sapeva bene cosa fosse. Perché l'herpes si trasmette per via sessuale. Per intenderci. Nel dizionario medico, per esempio, sotto la voce herpes genitale si trova la simpatica fotografia di un preservativo. E avevo 8 anni. Prima il rossore, brucia, prude. E poi? Pop, pop, pop. Nuvole. Bianco-gialle, su tutto il mio culo e sui genitali. Sempre più grandi. Bianco-gialle. Non ricordo tutto, so solo che faceva male. Ma non ricordo. Tutto ciò che ricordo è che ero a casa da sola. Vivevamo al quarto piano in Tovarniska 3C ad Aidiussina. E quando mia madre tornò a casa, pare che potesse sentire dall'ingresso del condominio quanto gridassi. Di dolore. Ricordo questo. Ricordo che chiamai mia mamma, piangendo. Persino urlando. Ricordo che ero seduta in salotto, sulla poltrona verde di mia nonna. Rivestita di una federa marrone davvero orrenda, di pelo sintetico. Poi... il pronto soccorso. L'ambulanza, la zastava 101 bianca di mio padre, diretta al St. Peter nel cuore della notte. Ma il dolore non me lo ricordo. Quindi non deve essere stato poi così male. E le infermiere avevano ragione quando il giorno dopo in ospedale dicevano che non riuscivo a sopportare nulla. Comunque, questa malattia sessualmente trasmissibile è incurabile. Ma la mia dottoressa, una volta, quando avevo 9 anni e l'herpes era tornato, decise di aiutarmi a porre fine a questo flagello. Per sempre. Mi scrisse una ricetta. Simona, brucerà molto, disse, ma devi sopportarlo e poi sarai guarita per sempre. E sopportai. Non ricordo questo dolore. So solo che è un inferno. Che bruciava come se mi stessero arrostendo il culo. Ogni mattina e pomeriggio e sera, quando mi spalmavano la crema prescritta dalla mia dottoressa. E mi bruciavano a poco il culo. Finché non divenne completamente nero. Il mio culo, intendo. Nero, come se fosse stato bruciato. Ma le nuvole non erano scomparse. Bianco-gialle. Si erano trasformate in pozze di fango secche e screpolate per poi ritornare. Bianco-gialle. Era necessario rivolgersi a uno specialista. Dermatologo. Perché vedesse questa meraviglia sul mio culo. In attesa del dermatologo. Nella sala d'attesa ero in pena per me stessa. E allo stesso tempo escogitavo piani su come tornare in ospedale. Mi piaceva andare in ospedale. Mi sembrava che solo stando in ospedale avrei potuto dimostrare a tutti quanto fossi seriamente malata. E poverina. Comunque... entro nel suo studio. Con mia madre. Tolgo i pantaloni. O forse una gonna. E le mutande. E mi piego in avanti. E il signor dermatologo si mette gli occhiali. E osserva la meraviglia sul mio culo. Nero. Con le nuvole. Interessante. Io piegata. Davvero interessante. Io ancora piegata. Ti fa male? Non ricordo più se facesse male. Ricordo solo che rimasi a letto nella stanza di mia nonna per 10 giorni. Che leggevo Robin Hood. Che mia nonna mi portava il tè. Che mia mamma mi portava il tè. Che mi sentivo così bene che ancora adesso quando sono malata mi ricordo di quando mi portavano il tè. E desidero avere 10 giorni di tempo per stare a letto a leggere Robin Hood. E che mia madre mi porti il tè. Oggi, quando mi viene l'herpes, nessuno mi chiede più se fa male. È lì, sul mio culo, prude, fa un po' male. Ma soprattutto mi dà sui nervi. Se peggiora troppo, vado in ospedale per un paio di giorni. Ma ora preferisco non andarci più. Non voglio che delle vecchie malate mi dicano che non riesco a sopportare nulla. Preferisco sopportare. Me lo tengo sul culo. E continuo a sorridere agli appuntamenti. Per questo, l'ultima volta che sono stata in ospedale, ho deciso che d'ora in poi il mio herpes sarebbe stato soltanto mio. E forse di qualche partner sessuale. Nel bene e nel male, come si dice. Dopotutto, se posso citare il mio caro amico, il drammaturgo Milan Markovic. Ima iutome, nesto lepo. C'è qualcosa di bello. Anche in tutto questo. La mia prossima malattia, o qualunque cosa sia, è il morbo divino. O epilessia. Caduta. O quello che è. I miei attacchi divini cominciarono quando avevo circa 11 anni. Ma non sapevo cosa potesse essere. Pensavo di essere solo malata. Brevi assenze che non facevano male a nessuno. E non davano fastidio a nessuno. Poi cominciarono a dar fastidio. Durante gli attacchi iniziai a sbavare. A vomitare. Dicevano i miei compagni di classe. Ma io non stavo vomitando. Nemmeno io riuscivo a spiegare cosa mi stesse succedendo. Come se fossi in una nuvola. Nebbia. Nebbia ovunque. Sono cosciente, ma non riesco a reagire. E saliva che mi cola dalla bocca. Per molto tempo non ho capito esattamente perché queste nuvole. Perché si addensassero su di me. Quale fosse il motivo. E così ricominciai a disegnare soli e nuvole. In modo leggermente diverso. Pensavo che fosse una sorta di punizione. Queste nuvole, intendo. Che mi colpiva ogni volta che mi masturbavo. E così disegnavo un sole per ogni orgasmo che avevo con me stessa. E una nuvola per ogni crisi. Prima di scoprire che in realtà erano crisi epilettiche. E cercavo collegamenti significativi. Questa cosa del masturbarsi va anche oltre. Ma non ha a che fare con nessuna diagnosi. Forse in futuro, quando mi verrà diagnosticata ad esempio la SAPC. Sindrome da ambiente post-cattolico. Oppure entro la stessa diagnosi, considerato che non sono ancora stata battezzata, non sono mai andata in chiesa, né ho ricevuto un'educazione cristiana, forse addirittura SNVC. Sindrome da non rispetto dei valori cristiani. A meno che, ovviamente, non decidano che non sono nemmeno pazza, ma il nemico di Stato numero uno. Il problema era che mio padre e mia madre non avevano mai visto queste crisi. Mi limitavo a dirgli che ero ancora malata. E basta. Mentre le maestre a scuola... E questo ancora non lo capisco, io davvero non lo capisco. Non dissero, chiesero mai niente. Per esempio... Vengo interrogata. Mi alzo e... Nuvola. Saliva. E le maestre non fanno nulla. Come se nulla fosse successo. In realtà, la prima a dirmi che avevo la malattia divina fu Vesna, quella a cui avevo girato il materasso. Quella che non vuole che io cloni patate. Me lo ricordo ancora. Eravamo a casa sua. Lei era in piedi, in cima alle scale davanti alla cucina. Io giù nel corridoio. E litigavamo. E ci urlavamo addosso. Non so più perché. So solo che Vesna a un certo punto disse... Simona, tu hai la malattia divina. Devi sapere che hai la malattia divina. E io la guardai. Dal basso verso l'alto e risposi... Sì, lo so. E allora? Ma ovviamente non lo sapevo. Vesna l'aveva scoperto prima di me. Perché giocavamo a pallamano e suo padre era il presidente del club di pallamano. E l'allenatore chiese al medico cosa potesse essere questa saliva su di me. Il medico gli disse che molto probabilmente era epilessia. E l'allenatore lo disse al presidente e il presidente lo disse a Vesna. E Vesna lo disse a me. Ebbi la mia prima crisi epilettica ufficiale durante la mia prima visita dal neurologo. Mia madre e mio padre erano con me. In attesa del neurologo. E fui colpita dalla divinità. La nuvola. Quando avevo 16 anni mi fecero operare. Per eliminare l'epilessia. Per sempre. In attesa dell'operazione. In un anno misi su parecchio peso. Circa 19 kg. Poi mi rasarono e operarono. E quando mi svegliai faceva solo molto male. Non riuscivo ad aprire la bocca. Non riuscivo a mangiare. Ma ancora una volta non ricordo il dolore. Quindi non può essere stato così terribile. Dopo una settimana tornai a casa. Un venerdì. Sabato mattina ero sdraiata sul divano. Quello verde. O forse ormai era già quello rosso. Oh, non mi ricordo nemmeno questo. E poi fui colpita da una crisi. E non si fermava. 15 minuti. Poi la sera andai a dormire e mi ritorna. Mia madre mi trovò in preda a convulsioni e schiuma. Quella volta andò avanti. E avanti. E non si fermava. Poi arrivò il dottore. Mi ricordo di lui. Seduto su un letto accanto al mio. Mentre io tremavo. Nella nuvola. Ma mi ricordo di lui. Mi fece un'iniezione di Valium sul culo. Niente nuvole. E si sedette. Stavo ancora tremando. E poi disse qualcosa. E fece un'altra iniezione sul culo. Niente nuvole. E si sedette. Ancora oggi mi sembra rivederlo. Seduto su un letto accanto al mio. Completamente sconvolto. Sembrava che non ci fosse niente da fare. Che sarei morta. Tremavo da circa 2 ore e mezza. E poi si fermò. La nuvola divina. E poi? E questa è la parte migliore. Vennero a prendermi in ambulanza. Io sono tutta un fremito. Ancora un po' nella nuvola. Non più così sotto Valium. Mi caricarono sull'ambulanza. Poco tempo prima avevo visto un film in cui rapivano le persone in ambulanza per eseguire esperimenti su di loro. E quella notte sapevo... No, ero assolutamente sicura. Che mi avrebbero portata da qualche parte per eseguire esperimenti su di me. Ma no. Mi dicevo mezza stordita in quell'ambulanza. Non mi avrete. Non avete alcuna chance. Non ricordo di aver vomitato lungo l'intero tragitto per l'ospedale. Questo me lo disse mia madre dopo. Ma ricordo di quanto fossi determinata a far sì che nessuno facesse esperimenti su di me. E di quanto fossi spaventata. Perché non potevo scappare. Alle superiori mi andava anche bene. Al mattino sarei potuta andare a scuola con uno sguardo abbattuto. E tutti intorno a me avrebbero capito. Avrei potuto tossire appena. E tutti intorno a me si sarebbero ammutoliti terrorizzati. E poi con voce rotta avrei potuto dire... che non mi sentivo bene. Che volevo andare a casa. E sarei potuta andare alla videoteca a prendere dei film. E in pizzeria a prendere la pizza. E guardare la televisione tutto il giorno e per di più... essere una vittima. Ma per tagliar corto, durante la mia adolescenza a un certo punto mi stufai di tutto. Scuola, soprattutto. E obesità. E decisi di farla finita. Un giorno in cui davvero non me la sentivo di alzarmi e andare a scuola. Né tantomeno di mostrare il mio volto sofferente per tornare a casa a guardare film. Detto, fatto. Avevo fatto scorta di un bel po' di pillole. Portai un bicchiere di tè in camera mia. Sbarrai la porta. E iniziai a bere. Ma non avevo previsto che ci voleva più di un bicchiere di tè per tutte quelle pillole. Quindi per un po' le ingoiai senza tè. Sapevo che una volta solcata quella porta per tornare in cucina, il mio suicidio sarebbe stato storia passata. E non era nemmeno iniziato a dovere. Così ingoiai le pillole senza tè per un altro po'. Ma non funzionava. Iniziai a controllare se ci fosse del liquido da qualche parte. Ma non c'era. Solo il tonico per i brufoli. E continuai a ingoiare le pillole senza liquido. E poi ne ebbi abbastanza. Sarei morta comunque, non faceva differenza. In attesa della redenzione. Buttai giù il resto con il tonico per i brufoli. E poi di nuovo il pronto soccorso. L'ambulanza, la Renault 5 verde argento di papà. Diretta all'ospedale St. Peter nel cuore della notte. E poi la vanda gastrica. E io di nuovo sdraiata. Non funzionava più nulla, né braccia. Né gambe. Rimasi sdraiata per qualche giorno. Mi rigirarono da una parte all'altra. Quando si stufarono di portarmi una bacinella, mi misero un catetere. Questo no. Questo proprio no, dicevo a me stessa semicosciente. Non un catetere, col cazzo. Ma non me lo volevano togliere e rimasi sdraiata col catetere per un giorno o due. Poi riuscii a muovere la mano e visto che non mi volevano ancora togliere il catetere, lo feci da sola. Ignorante come sono, ovviamente non avevo idea che un catetere non è un semplice tubo, che c'è questa pallina di plastica nella vescica che a poco ti fa a pezzi. E poi sangue, sangue ovunque. Ma almeno non avevo più un catetere. E poi ne ebbi abbastanza. Chiesi loro quando sarei potuta tornare a casa. Quando sarai in grado di camminare da sola dal letto al muro e tornare indietro. Ci vado oggi. Ma se non riesci nemmeno ad alzare il braccio. Poi l'infermiera tornò a casa. E io le dissi... Addio, domani non ci sarò più. E lei si limitò a un sorriso accondiscendente. Poi arrivò il dottore. E gli riferì ciò che mi avevano promesso. E quando mi confermò che mi avrebbe lasciato tornare a casa... Mi alzai. Camminai fino al muro e indietro. E poi di nuovo fino al letto. Non avrei potuto fare un solo passo in più. Ma mi lasciarono tornare a casa. Ho citato questo episodio solo per poter citare di nuovo il mio caro amico, il drammaturgo Milan Markovic, mia seconda citazione preferita. Ne postoji put dos rece, put gels reca. Non c'è una strada per la felicità. La strada stessa è la felicità. Comunque, poi mi mandarono dallo psichiatra. Ovviamente. In attesa dello psichiatra. Nel suo ufficio. O studio medico. Rovistai tra i suoi appunti e poi tra le testimonianze di adolescenti. Tra cui quella di una 17enne che era positiva all'HIV. Poi lui si sedette. E cominciammo. Mi chiese subito che cosa avessi sul braccio. Avevo 3 bruciature di sigaretta. Me le ero procurate da sola. E mi chiese. Simona, perché ti sei fatta questo? Credi che anche Claudia Schiffer lo faccia? Ed ero di nuovo tra nuvole e soli. Le superiori finirono. E il primo anno di università andai all'ospedale di Ginevra per degli esami. Per l'epilessia. Ovviamente. Mi impiantarono degli elettrodi interni. 14 elettrodi interni. Quelli che passano attraverso il cranio e arrivano direttamente al cervello. Se ho capito bene. E poi vi fecero passare attraverso delle microscariche elettriche e osservarono quello che succedeva al mio corpo. È stato fantastico. Insomma, passavano questa elettricità e il mio braccio si alzava completamente da solo. O la mia gamba. Era stradivertente. Oppure venivo sopraffatta. E questa era la parte migliore. Da una nuvola speciale. Non era come una crisi. Ma una sensazione fantastica che non riesco bene a descrivere. Non è come fumarsi una canna, né come avere un orgasmo. Ma qualcosa di diverso. Forse ancora meglio di questo. O forse no. Perché non ricordo la sensazione. Ma so che era davvero una figata e che ne volevo ancora. Ma sfortunatamente accadde solo 2 volte. O forse 3. L'ultima crisi epilettica grave Fu circa un anno e mezzo fa. Precisamente lunedì 6 marzo 2006. Ero seduta su uno sgabello da bar. Stavo bevendo un caffè con il mio caro amico Rock. Gli stavo raccontando entusiasta di un weekend edonistico. E poi mi colpì. Ero seduta troppo in alto. Ed è per questo che ancora oggi ho un po' paura degli sgabelli da bar. E la nuvola divina mi gettò a terra. Di nuovo mi svegliai in ambulanza. Semicosciente. Non sapevo niente. Non sapevo chi o dove fossi. Sapevo solo che dovevo andare a prendere mio figlio all'asilo. E poi svenni di nuovo. Quando ripresi coscienza, al pronto soccorso erano tutti intorno a me. Matei, il papà di Chertomil, e Rock. Matei e Rock mi guardavano impallediti, spaventati, preoccupati, mentre io continuavo a essere entusiasta e di buon umore. E a sinistra c'era mio figlio, che due giorni dopo avrebbe compiuto 5 anni. Che non mi voleva guardare. Mi dava la schiena e non mi voleva guardare. E io, mantenendo il mio buon umore, ragazzi, ma perché questi musi lunghi? Va tutto bene, dissi loro, e Matei e Rock mi lanciarono un'occhiataccia, mentre Chertomir mi dava la schiena. Datemi lo specchio per vedere questa meraviglia, dissi loro. E mi guardai. Solo a quel punto divenne davvero divertente. Quando mi vidi, non riuscivo a trattenere le risate. Fottutamente viola, o nera, o blu. Non ricordo esattamente i colori. Ricordo solo che la mia faccia era una nuvola gonfia e colorata, senza occhi. Mento e guance fuse insieme. Punti sulla palpebra destra. Riesco a sentirmi alla grande, ma avere un aspetto ripugnante. Suscito pietà e un pizzico di disgusto. Ma ehi, ho appena trascorso un weekend meraviglioso, non saranno un paio di punti a cambiare le cose. Inoltre, e questo non è da sottovalutare, ho un nuovo episodio per l'autonarrazione della vittima. Quando poi camminavo in giro con la mia faccia viola, che probabilmente non avrei dovuto avere, perché mette in imbarazzo la gente e poi fissano e fissano e fissano e non smettono di fissare. E quando questo fissare divenne davvero troppo, dissi loro: è stata tutta colpa mia, lui mi ama. Oppure: dopo si è pentito e mi ha comprato dei fiori e ora ci amiamo di nuovo. E loro si girarono indignati. Quando tornai all'ospedale di Ginevra all'età di 19 anni, dopo la mia seconda operazione, fu uguale. Ero rasata, con i punti in testa. Rimasi chiusa in ospedale per circa 2 mesi, senza dire una parola a nessuno dei miei compagni o amici. Ai tempi non c'erano mail o sms, ero letteralmente tagliata fuori dal mondo. Ogni tanto qualche lettera. E quando tornai a casa non mi importava di una testa rasata, cicatrici, punti. Volevo solo stare in mezzo alla gente, con un cappello, finché non venne il caldo. E prima gli sguardi d'accusa, e poi le parole, che sarei dovuta rimanere a casa. E non ero imbarazzata ad andare in giro conciata così. Che le persone si sentono a disagio a vedere una cosa del genere, e che io dovrei capirlo. Ad essere onesti, neanche a me piace vedere le persone con le stampelle. O apparecchi acustici. O apparecchio ai denti. O piercing. O smalto alle unghie. O camicie grigie. Quindi capisco perfettamente. E mi dispiace per loro. Quando, 2 giorni dopo quella sensazionale caduta dallo sgabello da bar, andai a prendere Chertomir all'asilo. Per il suo 5º compleanno. Il giorno della festa della donna. Un po' meno gonfia. Ma un po' più viola. Non avevo più paura di me. Mi venne incontro alla porta. Un gruppo di bambini mi guardava impaurito. E Chertomil agitò una mano verso di me e l'altra verso i bambini e gridò: ed ecco a voi la sorpresa viola! Vorrei chiudere l'epilessia con un aneddoto. Ho un mucchio di aneddoti sull'epilessia che non mi stanco mai di raccontare. Ma ne ho uno che li batte tutti e devo assolutamente raccontarlo. Dunque, una volta andammo a un raduno di un gruppo di aiuto per l'epilessia. Ovviamente. E dato che noi epilettici di solito non guidiamo, ingaggiammo un autista. E un furgone. Dunque, ci sono 7 o 8 epilettici seduti in un furgone guidato da un autista. Veniamo trasportati da Gorizia a Maribor. Ci fermiamo a un benzinaio poco prima di Maribor. Per una sigaretta. E poi vogliamo tornare sul furgone. Ma il nostro autista era stato scagliato a terra dalla divinità ed era in preda alle convulsioni. E convulsioni. E convulsioni. Finché il suolo non fu completamente ricoperto di sangue. Perché si era appena spaccato la testa. E 7 o 8 di noi epilettici ufficiali a guardare. E non sapevamo cosa fosse accaduto. Alla fine siamo sopravvissuti tutti. Compreso l'autista. L'ultimo, nella selezione delle mie malattie, è la mastite. Ovvero infiammazione del seno dopo il parto. Anzi, no. Direi l'intera esperienza del parto. Cioè, la diagnosi è il parto. Sintomi. Pancia enorme, mal di schiena, seno gonfio, dolori articolari, rottura delle acque, contrazioni, ambulanza. La nascita di un nuovo essere umano. Arrivo al reparto maternità. Il giorno della festa della donna. Prima chiudono la porta in faccia al padre perché non ha frequentato il corso preparto. Soprattutto perché non l'ha pagato. Ma ora è troppo tardi. Mi autorizzano a partorire. Il giorno della festa della donna. Anche se non ho frequentato il corso preparto. E poi tutte quelle cose disgustose. Clistere e contrazioni. Sono sdraiata lì da sola. Il giorno della festa della donna. In attesa di un'ostetrica. Durante le contrazioni leggo Anime romantiche di Ivan Zankar. Mi scappa la pipì. Ma non c'è spazio per disegnare una nuvola. Me la tengo, perché non posso alzarmi. Per non nuocere al nuovo essere umano. Mi si sono già rotte le acque. Chiamo il personale, ma non hanno tempo. Non sono ancora un'emergenza. E sono da sola. E poi ho le crisi. Nuvole. Non arriva nessuno. Non sono ancora un'emergenza. E sono sola. Spiego loro che devono farmi un cesareo. Per via dell'herpes. Che potrebbe essere letale per il nuovo essere umano. Così mi era stato detto. Ma allo stesso tempo una delle ginecologhe mi disse che non sapevo cosa fosse l'herpes. Non lo so. Probabilmente non lo so. Ma dobbiamo stare attenti che il nuovo umano non si faccia male. Ma non mi ascoltano. E aspetto. Non sono un'emergenza. E mi scappa la pipì. E ho le contrazioni. E le crisi. Ma non sono un caso d'emergenza. E non riesco a sopportare nulla e come se non bastasse sono sola. Ma perché cazzo non abbiamo frequentato il corso preparto per il bene del nuovo essere umano? E poi finalmente arriva la persona giusta. Appare sulla porta come per miracolo. La mia vecchia ginecologa. E mi manda in sala operatoria e me lo tirano fuori. Il nuovo essere umano. L'unica paura che avevo per questo nuovo essere era che sarebbe stato davvero minuscolo. Perché, primo, se si assumono antiepilettici durante la gravidanza, c'è la possibilità che il nuovo umano abbia una circonferenza cranica più piccola e che sia più piccolo in generale. E secondo, se si fuma durante la gravidanza, ci sono le stesse possibilità, una circonferenza cranica ridotta e un bambino più piccolo. E poi la mia mente perversa si è costruita un'immagine di questo nuovo essere, che non esistesse affatto. Perché si era dissolto tra tegretol e nicotina. Quando tornai un po' in me, dopo che me l'avevano tirato fuori e l'enorme crisi era cessata, tutto quello che volevo sapere era se il bambino fosse grande. È grande? È grande? Chiedevo, ancora leggermente intontita dall'anestesia. È enorme, mi dissero e me lo mostrarono. 4,80 kg per 53 centimetri di nuovo umano. Che aveva anelli di grasso attorno al collo e faceva delle smorfie come se stesse ridendo di tutti noi vecchi umani caricati su un'enorme ambulanza con 6,7 miliardi di posti. E poi mi svegliai in una stanza e volevo dire al padre che ha un figlio. Ma non mi danno un telefono. Cosa succederebbe se dessero un telefono a tutte le madri? Non vogliamo mandare in bancarotta il reparto maternità. E poi è cominciato tutto. Sto allattando questo nuovo umano enorme e mi fa male. Male. Male. Non ricordo più nemmeno quel dolore. La sola cosa che ricordo è che le lacrime mi scorrevano sulle guance e che guardavo questo nuovo essere tra le mie braccia. Il mio torturatore. Era esattamente così che lo percepivo. Per un momento. Come un torturatore. E poi il senso di colpa. Ovviamente. Un senso di colpa terrificante. Che razza di madre sei? Sicuramente è bello avere il sangue che cola dalle tette. E dico a un'infermiera... Fa male, male, non riesco ad allattare, perdo sangue dal seno. Non si preoccupi. Dice con un sorriso. Lo sputerà. Le mie tette sono nuvole di pus, ma ormai ci sono abituata. Alle nuvole. E nuvole. Ma non importa. Il nuovo essere umano è tra le mie braccia. Questo è ciò che importa. E così ho fatto la mia parte. Ho messo un nuovo essere umano sull'ambulanza da 6,7 miliardi di posti. Potrei raccontarvi delle sue malattie. Ma questa sarebbe la sua storia. Perché io ho già fatto la mia parte. Non sono un ramo secco della società. Mi sono realizzata come donna. E ovviamente come vittima. L'unica cosa che mi dà fastidio... Ma davvero fastidio? È che ora è lui al centro dell'attenzione. Il nuovo essere umano? Non io. Nessuna delle mie malattie attira alcun interesse o simpatia. E allora penso tra me e me... Bisogna fare qualcosa. Qualcosa. E poi mi sembra che l'unica cosa che può ancora salvarmi... Cioè, salvare la mia integrità personale. È una nuova malattia. in modo che possa guardarmi intorno con sguardo dimesso. E la gente capisca. In modo che possa tossire appena. E la gente taccia in preda al terrore. Qualcosa del genere. Ma per mio grande dispiacere. E delusione. Non mi piacciono i succhi di frutta pronti, preferisco prepararli da sola. Non mi piace prendere troppo sole. Non mi piacciono gli hamburger di McDonald's. Non mi piacciono rossetti e trucchi e tinte per capelli e spray per capelli e smalti per le unghie. Non mi piace l'alcol. O almeno non troppo. Non mi piacciono le bibite gassate, né cocktail o Coca-Cola o birra. Non mi piace il cibo fritto. Non mi piace la verdura e la verdura dell'Interspar. Preferisco prenderla dall'orto di mia madre. Non mi piacciono i cibi precotti. Cucino praticamente tutti i giorni. Non guido. Quindi cammino. E non cammino sui tacchi. Non mi piace l'aria condizionata in casa o in auto. Non mi piace il cibo ad alta conservazione. Non mi piace la carta igienica profumata. Non mi piacciono le fragranze artificiali per migliorare la casa. Non mi piacciono candeggina e ammorbidenti. Non mi piacciono le creme antirughe, antietà e anticellulite e così via. Cum grazia in infinitum. E mi rendo conto che l'unica cosa che posso provare, che mi rimane, che può salvarmi, sono caffè e sigarette. Un tiro dopo l'altro. Una sigaretta dietro l'altra. E ancora... E ovunque. E provo. E provo. A produrre un'altra diagnosi, per poter scrivere un nuovo episodio dell'autonarrazione della vittima. E vi prego. Vi imploro. Una breve pausa. Inspira. Ed espira. E poi... finisce. Lasciatemi fumare. Grazie. Allora, dunque, non volevo rovinare questo meraviglioso momento con le parole di Simona Semenic, però mi sembra che sia interessante un po', riprendendo anche il discorso che abbiamo fatto l'altra volta, parlando un po' di questo nuovo teatro femminile molto dirompente, no? Che rompe un po' proprio anche l'idea del teatro come era un tempo e quindi che abbia un po' questa forza di far immergere, credo, gli spettatori e le spettatrici dentro la realtà, cioè tanto che mi viene da dire che per chi ha assistito anche comunque a uno spettacolo di voci, quindi non c'è uno spettacolo vero e proprio, no? Eppure siamo riusciti e riuscite a essere trasportati dentro questa esperienza, proprio perché penso che questo tipo di narrazione, no, molto autoironico, molto provocatorio, abbia proprio questa forza di parlare di tematiche tabù, se così possiamo definirle, e allo stesso tempo di non sembrare pesanti o critiche, ma al contrario di suscitare, credo, un po' nello spettatore un senso di dubbio, un senso di messa in discussione. E quindi chiedo a te, Martina, se vuoi raccontare un po' meglio in cosa consiste questa drammaturgia da un punto di vista più specifico, proprio anche di come è scritto il testo, no? Sì. In particolare Simona considera la sua drammaturgia e i suoi testi come degli spettacoli a sé stanti. E in questo testo, Io la vittima, lei parla della sua esperienza personale tentando di ribaltare un po' l'auto... Lei gioca col vittimismo per portare sulla scena delle tematiche appunto che l'hanno resa vittima, ma senza fare la vittima, perché nel momento in cui lo racconta in chiave ironica arriva ad affrontare dei temi che di solito non si trattano, tipo l'epilessia, il sistema sanitario, malattie imbarazzanti che le recano vergogna, e ci gioca anche con il fatto che queste tematiche le danno degli argomenti per poter ottenere attenzione come vittima, e nel momento in cui lei gioca con questa cosa smette di autocommiserarsi, ma al contrario fa ironia su appunto queste tematiche, riuscendo al contempo appunto a farle emergere e a parlare delle sue crisi epilettiche, di come lei ha affrontato la gravidanza, e quindi parla della gravidanza descrivendola come una malattia, che è una cosa sconveniente, diciamo. Di solito la gravidanza viene narrata attraverso la narrazione della madre che deve essere felice, invece lei in quel momento ha avuto delle difficoltà, e ha percepito il figlio come un torturatore, e questo è arrivato a farla sentire in colpa perché non era una buona madre. E in realtà può essere che ci siano dei lati oscuri anche nel partorire, e quindi diciamo che la cosa che mi ha colpito tanto di Simona è appunto questa modalità senza filtri, molto schietta, diretta, di raccontare e di affrontare tematiche che solitamente sono dei tabù. E alla fine arriva a fare una critica al sistema sanitario, una critica alla società tutta, e a parlare di se stessa e a portare dei temi, l'ho già detto 3 volte, però sì, che appunto non si affrontano solitamente. Addirittura l'epilessia, che diciamo che è una delle ultime malattie che lei ha, è una tematica che non era mai stata affrontata in pubblico in Slovenia. Lei è stata una delle prime persone che ne ha parlato in pubblico, e addirittura questo monologo, la prima volta che lei l'ha fatto, l'ha letto in pubblico, lo legge su quello sgabello da bar da cui lei era caduta avendo quella crisi. Quindi si mette anche lei in una posizione che provocatoriamente è pericolosa per una persona che soffre di epilessia, e per lei in particolare, perché cadendo dallo sgabello da bar che è in alto ha battuto la testa e poi è finita in ospedale. Sì, poi penso che sia anche interessante, visto che parlavamo anche di femminismo, leggere, diciamo, questa provocatorietà in questo senso, e quindi anche la scelta di chiamare questo primo monologo vittima, no? Come d'altronde molto spesso le femministe vengono inquadrate come delle vittime che devono lamentarsi di qualcosa, no? Che non va. E invece di farlo appunto in una chiave disperata, non so, come dicevamo anche l'altra volta di Sarah Kane, in un modo quasi lacerante, invece lo faccia in questo modo provocatorio e ironico, che, come dire, vuole forse andare anche un po' contro questa idea di donna femminista comune, no? Nell'ottica, insomma, nell'immaginario comune. E non solo, perché lei dice proprio: io ho bisogno di avere delle malattie così poi attiro l'attenzione del pubblico. E quindi fa vedere anche come quanto a volte nel raccontare, cioè nello stressare troppo questa autocommiserazione, questo vittimismo, si finisce per poi contribuire a continuare a essere vittime. E lei fa vedere come a volte queste tematiche vengono trattate solamente in chiave appunto vittimistica, e portano però le vittime stesse a sfruttare questa cosa, e poi alla fine diventa un po' un meccanismo di tra virgolette mercificazione di queste tematiche, che vengono sfruttate per ottenere attenzione o... Certo, però poi al contrario hanno l'obiettivo di suscitare una critica, no? Anche, come dire, costruttiva, in qualsiasi genere, cioè femminile, maschile. Poi non so se Giulia vuoi aggiungere qualcosa. No, pensavo soltanto alla rivendicazione, alla riappropriazione più che altro del termine vittima. Sì. E molto spesso, no, l'esempio della madre che citava Martina è effettivamente proprio fondante da questo punto di vista. C'è una narrazione che molto raramente è portata avanti dai soggetti stessi, cioè dagli oggetti stessi della narrazione. E la narrazione di vittime, non solo del femminismo, ma probabilmente del femminile, Simona se ne riappropria in questo modo che è così piacevolmente provocatorio, che non saprei cos'altro si può aggiungere, perché il giocarci è il modo perfetto per rompere quello schema e riprendersi il potere che forse ha sempre avuto e che con intelligenza ha sfruttato nel meccanismo di cui parlavi tu, Marti. Sì. Ma e per te come attrice com'è stata l'esperienza di portarla in scena? È molto divertente. E anche. Quindi. È molto divertente la parola di Simona e la traduzione di Martina, che, avendo evidentemente esperienze teatrali anche lei, ha saputo tradurre la ritmica, il suono. Avete visto che è tutto ritmico, estremamente ritmico, e lei, anche quando abbiamo provato, ci teneva a questo elemento della ritmica. Ci sono degli a capo, per chi è qui può vedere, il copione è tutto ad a capo, non è un testo che riempie la pagina. perché sono pensieri che cambiano, un pensiero che attraversa, è proprio il suo flusso di pensiero che va e che è trascritto sulla pagina e che si moltiplica all'interno del testo tradotto da Marti, Mi senti, in cui la Simona di oggi dialoga con i testi scritti anni prima, e questo moltiplicarsi di voci è divertentissimo. E infatti volevo chiedervi anche se, cioè, si nota, no, che all'inizio e alla fine c'è una stessa didascalia che punta sull'inspirare e respirare. Non so se volete fare un piccolo inciso per spiegare. Sì, allora, questa è veramente la didascalia che Simona preferisce, che poi Simona ha scritto tantissimi testi, questa didascalia torna in tutti i testi, ogni volta assume una valenza diversa. E questa didascalia è stata in questo testo che abbiamo letto, è tutto testo monologico, e c'è questa didascalia, l'unica didascalia del testo è inspira, espira. Nei testi successivi la didascalia diventa testo, nel senso che le parole delle didascalie, che sono i pensieri dell'autrice, iniziano a parlare con il pubblico, cioè a dirgli sul palco c'è quello che dicono di solito le didascalie, informazioni, però poi dicono: tu sei il pubblico, non mi interessa se c'è veramente un palco in scena, l'importante è che tu magari ti insulta anche, immagini che ci sia un palco, questo testo, e lei parla nei testi con il pubblico, quindi secondo me in questo testo questo respirare è l'inizio di un processo che poi avrà, questo è stato scritto nel 2007, è stato uno dei primi testi che ha scritto, che poi dopo nei testi si sviluppa, e come veramente per lei il testo prende vita, perché parla con il lettore, che è poi anche quello che accadrà, che accade nei testi di commento di cui parlava Giulia prima, perché se nel libro ci sono dei testi in cui Simona commenta, si autocommenta, ma lo fa parlando in maniera diretta con chi sta leggendo. E quindi poi in realtà a lei piace molto, perché appunto questo inspirare ed espirare rappresenta la vita, è come un momento retorico che ci si prende, in cui appunto si crea uno spazio e si fa respirare il testo, ed è per quello che lei veramente, io quando ho chiesto a Simona, perché la sua drammaturgia si chiama scrittura performativa, le ho chiesto: ma in che senso scrittura performativa? Lei mi ha detto: il mio testo è già lo spettacolo, leggere un mio testo è come guardarmi quando lo metto in scena. Ed è come se per lei veramente la parola è vita, e per quello anche per me è così importante che questo testo venga sentito, venga letto, più che messo in scena o performato. Ma nell'intervista che l'hai fatto, sei riuscita a chiederlo, hai idea di che impatto ha avuto per lei, cioè come è stato per lei la prima volta che lo ha performato, che risponso ha avuto sul pubblico a cui lo ha presentato? In realtà lei era molto nervosa prima della sua prima lettura, perché credeva che questo faceva parte appunto di un festival, di questo club Metelkova Città delle Donne, dove dei drammaturghi scrivevano i testi e li leggevano, perché lei è stata una delle prime. Di solito quando andiamo a teatro non facciamo sempre caso al regista, al testo mai, forse solamente prima della svolta performativa, che è stato quando si è dato così spessore alla messa in scena, si andava a vedere anche il testo dell'autore, tipo Shakespeare è l'autore, poi dopo ci sono i registi, quindi lei, e anche in Slovenia c'era stata questa ascesa della regia e non si dava più tanto rilievo ai testi, e lei appunto ha fondato varie associazioni con alcuni drammaturghi per stimolare una nuova scrittura, e questi testi venivano anche letti pubblicamente, quindi lei è stata una delle prime letture che aveva fatto in pubblico, dove parlava di sé e credeva che appunto le sue esperienze non avessero, cioè diceva: ma chi gliene frega della mia epilessia. E poi quando invece è andata in scena ha avuto un grandissimo successo, addirittura appunto lei mi ha detto che una persona nel pubblico si è alzata ed è andata a ringraziarla, perché era epilettica e nessuno aveva mai parlato dell'epilessia, quindi lei si è accorta di quanto il privato è politico e di quanto sia importante anche provare ad esprimersi anche con delle cose personali per far leggere la propria biografia, cioè per farsi specchiare alla fine. Comunque sì, ha avuto un grandissimo successo, tant'è che poi Simona poi ha scritto tantissimi altri testi, però è diventata una delle personalità più influenti del teatro, non solo femminile, ma anche poi lei scrive anche romanzi, quindi addirittura nel 2018-17 ha vinto un premio che si chiama Presseren Fund Award, che è la più alta onorificenza nel campo delle arti, di tutte le arti, quindi in Slovenia, quindi sì. Va bene, allora se non ci sono domande dal pubblico o se voi non avete ultimi commenti da aggiungere, Giulia, vuoi dire qualcosa? Semplicemente, visto che avevamo parlato di Amleta, e spendo una mezza parola in più, certo, vista anche le tematiche di cui stiamo parlando, Amleta, questa associazione di cui vi parlavo, si occupa tra le varie cose attraverso un'osservatoria di raccogliere testimonianze di casi di violenza, molestie, eccetera, e lavoriamo con le avvocate di Differenza Donna per sostenere le ragazze e talvolta i ragazzi che si sentono e sono in condizione di denunciare. È aperta la campagna Tesseramenti 2025, per cui se volete sostenere le spese legali delle persone che denunciano e sostenere l'associazione, amleta.org. Perfetto, lo faremo sicuramente. E vi ricordo il prossimo appuntamento in cui Martina ci leggerà il secondo monologo, che sarà il 16 aprile, mi confermi? Sì. 16 aprile. E se volete invece venerdì, cioè dopodomani, facciamo un altro evento di Cabaret Voltaire, che sarà invece una inaugurazione di una mostra di un giovane artista, e quindi siete benvenute e benvenuti a partecipare. Grazie. Grazie. Grazie.